dice no, lei dice non lo so. Io non lo dico ma tanto lo so che mi coniugherò. A candela, ma c'è bisogno di Aro.